Ma Gilda, non ti ho mai visto così, poi mi turba. Allora ti scappa. È andata. Ti aiuto io? No, così aperto, vedi che... È andata? È andata? Ma dammi un cenno, è andata? Sembrerebbe che... No, no, calma, è andata, no? È andata troppo forte. Chi? No, ma l'importante è che ti sei liberato, sì. Evacuato. A questo, ma che, come dire, eh? Il colpo di coda, poi è finita adesso. E beh, proprio, eh? E beh, si sente anche, io magari adesso vado al bar perché... Sai che mi faccio dare, vado in infermeria, faccio, sai quelli che fanno le autopsie, si mette quella roba sul naso per non sentire l'odore. È una roba che si mette qui. Deve fare la cacca. Siamo di nuovo a parlare di questo. Ma qua sono Screaming Jay Hawkins e Serge Gainsbourg. Noblesse oblige, allora, va bene. Quindi, l'argomento è di quelli nobili, quelli trattati sulle tavole del re. Quindi salutiamo tutti: Carmelo Lauricella, Nadia Zammiti, Alberto Caserini, Guido Bertolotti, Salvatore Iorio, Maria Grazia Guzmano. Chi? Chi? No, ma ancora?